3 anni fa facevo uno spettacolo a teatro in cui in pratica parlavo di quanto fa schifo essere una donna. Era la storia di un maschiaccio che cresce dentro una donna ma rimane un maschiaccio perché quello che sente non c'entra nulla con ciò che tutti si aspettano da lei in quanto donna. In pratica, la mia storia. Il problema però era che parlavo di maternità senza essere una mamma. Comunque, una sera in sala c'era una mia vecchia compagna di scuola. Era la mia migliore amica, la mia amica del cuore. Dai 13 ai 16 anni abbiamo fatto sesso tutti i giorni nello stanzino delle scope. E 15 anni dopo me la vedo lì in sala, la mia amica del cuore, a vedere il mio spettacolo. La mia migliore amica. È vero, mi ha mollata. Vabbè, è successo 15 anni fa. Appena finisco corro a salutarla. È vero, mi ha mollata per uno. Pace, ne è passata di acqua sotto i ponti. Sono emozionata, vado subito al bar. Per uno che si chiamava Nigel. Ma dico, ma come cazzo fai a mollarmi per uno che si chiama Nigel? Non mi pare molto eccitante, no? Vabbè, pazienza, acqua passata. Vado al bar, smack smack, d'altronde sono una teatrante consumata, e le faccio, come stai? Ti è piaciuto lo spettacolo? No. No? No? No. Non le piace il testo. Secondo lei non è vero che essere donna fa schifo. A lei piace essere donna. Perché? Perché ora è mamma. E essere una mamma è, pare, il lavoro più importante dell'universo. Essere mamma è paradiso. Nirvana puro. Una donna si realizza solo diventando mamma. Non è possibile. La mia migliore amica. La mia prima storia lesbica. Io questa donna la amavo, le scrivevo i bigliettini e ora è una mamma. Ma non una mamma qualsiasi. Una di quelle mamme lì, tutte farde asilo nido. Non ti è piaciuto il mio spettacolo? Ok, non può mica piacere a tutti. Nigel l'avrebbe fatto di sicuro meglio. Chissà quanto avrebbe fatto ridere lui, vero? Ma non è detta l'ultima parola. Sei sicura che prima o poi mi vendico, brutta vacca che non sei altro? 2 anni dopo commetto il peccato mortale. Faccio sesso con un uomo. Pensavamo di essere radicali e di sinistra perché io ero lesbica e lui era gay. Ora salta fuori, logico, che eravamo il top del fronte queer. Un'avanguardia o roba del genere. L'unica volta in vita mia che sono stata trendy. Non mi chiedete che cosa voglia dire queer perché mi prendesse un colpo se lo so. Credo voglia dire una cosa tipo che le lesbiche possono scopare con i gay e viceversa. E dire che per me quella era roba da etero. E invece, che ci volete fare? I tempi cambiano. Comunque essere etero è dura. Non me ne ero mai accorta. Dovrebbero scrivere canzoni, inventare slogan. La gente dovrebbe fare cortei, tavole rotonde, dibattiti. È un dramma. Intanto non capisci mai cosa dice l'altro. Io ho passato la metà della mia relazione con quest'uomo a dire «Cosa?» e l'altra metà a dire «Non hai capito?» Niente. Continuo a girarmi per casa e io continuo a pensare «Che ci stai a fare qui? Perché non ti fai una cuccia in garage?» E poi c'è il problema della contraccezione. E io non so niente di contraccezione. So solo una cosa. Non voglio prendere la pillola. Perché dice che fa venire le perdite? Beh, le perdite, è orribile, nemmeno fossi un rubinetto. Ha mai pensato di usare i pannolini anatomici? Cazzo, sono una lesbica, o almeno lo ero. Poi ci sono i pannolini con le ali, ma le ali ti fanno il pacco. Ti fanno il pacco proprio qui e alla fine cammini come se fossi John Wayne. Ah, forse ho capito a cosa servono. Sono assorbenti per lesbiche. Ehi sì, ho le perdite e il pacco, sono una vera dura. Comunque, non voglio prendere la pillola. Se no, c'è il diaframma. Il diaframma è come una specie di mezza palla da tennis, senza il pelo. Il problema è che rimbalza. Tu ci spremi sopra un sacco di schifezze, lo tieni stretto, stai per infilartelo e lui ti scappa di mano, rimbalza per tutto il bagno, raccoglie peli e sporco qua e là e finisce regolarmente nel water. Quindi lasciamo stare il diaframma. O altrimenti c'è la spirale. Lo iod. Beh, non so voi, ma io non voglio che mi caccino nell'utero una cosa che si chiama come un'organizzazione terroristica. Così alla fine compriamo dei preservativi. Palloncini morti. E io gli dico, ora tu ti metti questo palloncino morto sul pene e poi infili il pene e il palloncino morto dentro di me, ok? Facile, no? No. Per lui è più facile raddrizzare la torre di Pisa. Lui non sa nulla di donne. Mi succhia le dita dei piedi, mi massaggia i polpacci e io più su e infilamelo dentro, dai, hai il mio consenso, sali, sali! Niente. Ha paura di opprimermi con il suo pene. Opprimermi con il suo pene. Senti tesoro, la mia vagina sta per circondarti, quindi come cazzo potresti opprimermi con il tuo pene? La mia vagina ti può circondare, stritolare in una morsa e staccarti via il cazzo in 2 secondi netti se mi va, perché io ho fatto gli esercizi. Li potete fare ovunque, ragazzi, al supermercato, alla fermata del bus, al parrucchiere. Gli esercizi sono un'attività molto discreta, femminile e senza cattivi odori. E ti insegnano a scopare come un coniglio, a sentire tutto godendo di una marea di orgasmi fantastici e, come se non bastasse, quando sei incinta puoi tossire senza bagnarti le mutande. Vabbè, insomma, alla fine scopiamo e il preservativo si rompe. Il mio ragazzo entra in panico, corre in giro per la casa in cerca di spermicidi, pesticidi, insetticidi, Coca-Cola, gin. Gin? Che ci vuoi fare? Vuoi bertelo o ficcarmelo dentro? E io me ne sto lì a ridacchiare e dire: mi piacerebbe chiamarla Jemima. Che ne dici di Elvis? Anche mentre lui mi trascina in bagno e mi getta di peso in una vasca piena di mostarda. Perché è uno scherzo, chiaro. Io non posso diventare mamma. Le mamme sono tutte come Orietta Berti, portano vestiti da mamme come Orietta Berti, sono sensate e danno buoni consigli come Orietta Berti. È triste, tesoro, vero tesoro? Sei triste, lo so, fatti un bel pianto e poi cercati un hobby. Insomma, non è il mio genere, quindi non succederà, giusto? Sbagliato, sono incinta e sto per diventare mamma. Sono terrorizzata. Io non ho mai visto un bambino in vita mia. Beh no, sì, una volta l'ho vista e ho cambiato strada. Insomma, io sono fatta così, non sono adatta a fare la mamma. E poi il mio spettacolo finiva con un aborto, quindi... E poi d'un tratto divento mistica. Non vorrei, ma non ne posso fare a meno. Come ha fatto a rompersi il preservativo? E non è stata colpa nostra. L'abbiamo messo bene, ci siamo stati attenti. E allora chi è stato il killer del preservativo? Io lo so. È stato Dio! E certo, tutti parlano di questa benevola figura paterna, ma se leggi il suo libro ti rendi conto che è un bello stronzo. Perseguita la gente, minaccia di uccidere il figlio di Abramo, trasforma un povero gruppo di donne indifese in un mucchio di sale solo perché una si è voltata a vedere se aveva lasciato il gas aperto, appiccica alla gente piaghe, vesciche e tutti i fastidi più tremendi. È chiaro che è stato Dio. Bastardo. E poi mi ricordo della mia prima storia lesbica e allora capisco tutto. È stato Dio, sì. Dio ha rotto il preservativo per aiutarmi nella mia vendetta. Dimostrerò che essere donna fa schifo diventando mamma, facendo cioè tutto il percorso che si pensa che una donna debba fare, continuando a pensare che fa schifo. E a quel punto lo dovrà ammettere anche lei, la mia ex ragazza, che il mio spettacolo era divertente, interessante e diceva la verità. E dovrà ammettere che sono molto meglio io di quel nigel lì e che mollarmi 15 anni fa è stato un errore terribile. Sono incinta. Bisogna andare ai corsi preparto. I corsi preparto, ragazzi, geniali. La prima cosa che ci chiedono è: c'è qualcuno che fuma? Penso, oh, bella, ora ci passano le sigarette, ce le fumiamo e ci facciamo 2 chiacchiere. E invece no, mi stavano informando che uccidevo il mio bambino e non mi ero neanche tolta il cappotto. Poi dicono cose folli tipo: oggi vi insegneremo a respirare. Vaffanculo, ho 30 anni, lo saprò come si respira. Sono sempre stata precoce, a 2 anni respiravo già. Una mattina mi sveglio completamente paralizzata. Non posso scendere dal letto. Dico al mio ragazzo che non mi posso muovere perché non so come si fa a diventare mamma. Ammette che anche lui è terrorizzato. Così discutiamo un po' su come prepararci a diventare 2 bravi genitori. 60 sigarette più tardi lui se ne esce con un'idea geniale. Dobbiamo dimenticarci la maternità finché non arriva davvero. A quel punto io mi riprendo immediatamente e comincio a picchiarlo. No, no, no, no, non per via degli ormoni o perché è un cazzone bastardo con delle idee idiote, ma perché, come dicono nei libri sui bambini, è più difficile per l'uomo, perché può sentirsi escluso nei momenti in cui la donna deve affrontare il dolore e la sofferenza. Per questo lo picchio, perché Dio non vuole che si senta escluso dall'esperienza del dolore e della sofferenza. Ho sempre saputo che sarebbe stata una bambina. Doveva essere una bambina. Non volevo un altro maschio dentro di me. Uno mi era bastato, guardate che casino che aveva fatto. Quello che mi fa schifo della maternità è come dei perfetti estranei cerchino continuamente di farti sentire in colpa. Te ne stai lì tranquilla che ti fumi una sigaretta? Lo sa che così uccide il suo bambino? Amico, vuoi vivere abbastanza per scoprirlo o no? Oppure, dopo giorni di attesa, le abbiamo fissato un appuntamento col dottore per domani alle 16:25. Eh no, ma domani non posso, ho una riunione importante. Più importante del suo bambino? E poi non mi parlate del travaglio. Non nominatemelo nemmeno. A partire da quella svampita 18enne aspirante ostetrica che non ha smesso durante tutto il travaglio di chiamarmi Pulcino. Pulcino? Pulcino? Sono un essere umano di 30 anni, non sono qui a fare l'uovo. Senti una contrazione, Pulcino? Vuoi un po' d'acqua, Pulcino? Ti dispiace smettere di rovinarmi il parto, sorellina? Ah, a proposito, ho partorito in casa. È buffo, appena parli di parto in casa tutte le ostetriche pensano subito che ti interessi di aromaterapia, cereali, canto dei delfini. Io in realtà volevo partorire in casa solo perché almeno potevo fumare. Ero così terrorizzata dall'idea di non poter fumare che ho pensato bene di starmene a casa con un mucchio di posacenere intorno. L'ostetrica ha detto che era la prima volta che interrompeva un travaglio per una pausa sigaretta. Gli ho detto hai ragione, anch'io. Insorgono complicazioni. Arriva l'ambulanza. Io ero di fuori, completamente drogata dall'anestesia. Durante il tragitto comincio a provarci con un'infermiera. Dopodiché mi ritrovo su un tavolaccio, mi rasano i peli del pube, mi fermano i piedi a delle staffe e mi dicono di spingere. Spingere? Sono paralizzata dalla cintola in giù e vedo queste due gambotte sistemate davanti a me in maniera davvero poco femminile. E a quel punto penso, scusate, ma già che c'eravate potevate depilarmi pure le gambe, ti credo che l'infermiera dell'ambulanza non m'ha voluta. Poi passo un giorno in ospedale e finalmente posso andare a casa. Beh, dopo una piccola rissa con l'infermiera che mi inseguiva per il corridoio con in braccio la bambina urlando «Guardi che questa la deve prendere lei!» E io «Levati dalle palle, io qui ho fatto, sono venuta per una liposuzione!» Non so ancora nulla della maternità. E così ce ne andiamo tutti a casa con il mio ragazzo che guida a 10 km all'ora con le frecce di posizione che lampeggiano. Un nostro amico che ci vede ancora come una lesbica e un gay dice che è la nascita più miracolosa dopo quella di Gesù Cristo. È un insulto. Lei è Gesù Cristo. Il nuovo Gesù sarà una lesbica tostissima in sella a una motocicletta e quando sarà grande salverà il mondo. Continuiamo a ripetercelo. Se no, voglio dire, perché tenerla? Non sa fare nulla. Abbiamo tentato di buttarle dei bastoncini ma non ce li riporta. Quindi eccola la nostra buona ragione per tenerla. Diventerà il nuovo Messia. Ma sempre meglio di tante altre che ho sentito. Abbiamo fatto un bambino per tenere insieme il nostro matrimonio. Sperano che crescerà la svelta per fare l'esperto di problemi di coppia o pensano di usarlo per passarsi i piatti? Io non la capisco, la gente. Però non è tutto così brutto. Devo dire che ho capito, per averlo provato, per quale ragione la gente ce l'ha tanto con le lesbiche e i gay. Invidia. Eh sì. La gente invidia lesbiche e gay perché sono le persone a cui è meno probabile che capiti di avere dei figli. La maternità fa schifo, è un mito. Questa storia che la donna è realizzata è una balla. È la gente che è sorda e capisce male, chiede come va? E la donna risponde sono incazzata. Realizzata, sì, incazzata. Finora ho retto, ma ora non ce la faccio più. Fa schifo tutto. Le responsabilità, le pressioni continue, la sensazione di essere incastrata, di non potersi muovere. No, non è vero. C'è una cosa che non fa schifo ed è un problema. La bambina non fa schifo. La bambina è bella, meravigliosa. E questo è seccante, perché se la bambina avesse fatto schifo l'avrei gettata nel bidone della spazzatura e avrei risolto il problema. Ma non fa schifo. Tutto il resto sì, però. E poi mi ricordo della mia prima storia lesbica. È per lei che mi trovo in queste condizioni. Già, finalmente mi posso vendicare, ho vinto io. La chiamo, le dico, la maternità fa schifo. E lei, lo so. Cosa? E perché non me l'hai detto? Perché eri lesbica, spensierata, felice, e io ti odiavo e ti volevo fregare. Ah. E poi mi fa, ah, a proposito, ti ricordi Nigel? Nigel? Vagamente. Beh, si è operato, è una donna ora. Purtroppo però non potrà mai avere dei bambini. Già. Bene. Molto bene. Bastardo di un Nigel. Aspetta e vedrai. Tanto prima o poi riesco a fregare anche te.